GR Europa. Bentrovati da Anna Migliorati per il nostro sguardo sull'Europa. I combattimenti che sentivamo anche in GR24 in corso in Mali dopo l'intervento francese preoccupano la diplomazia europea. È riunita la piattaforma di crisi dei servizi europei. Per il momento l'invio della missione dell'Unione per l'addestramento dell'esercito maliano, già decisa a dicembre, resta fissata per metà febbraio inizio marzo, ha precisato il portavoce dell'alto rappresentante per la politica estera europea Catherine Ashton. La missione europea non avrà alcun ruolo nei combattimenti in corso. Confermato invece l'invio di circa 250 istruttori militari più altro personale per complessive 400-500 unità. La missione dovrebbe avere il via libera dei ministri europei il 22 gennaio. E alle 17 a Strasburgo si apre una settimana di sessione plenaria per l'Europarlamento. Tra i temi in esame le nuove regole per le agenzie di rating. I deputati si confronteranno anche su Eurobonds e altri strumenti finanziari con la crisi economica che ancora si fa sentire in Europa e con un quadro che mostra ancora profonde differenze tra i diversi paesi. Temperature rigide per quanto riguarda la produzione industriale a novembre, che ha registrato in Italia un calo del 7,6% su base annua e dell'1% rispetto al mese precedente. Lo rileva l'Istat. Si tratta del 15° ribasso consecutivo su base annua, quindi dal settembre 2011, con l'aggravante dell'accelerazione rispetto a ottobre della discesa tendenziale. Crolla in particolare la produzione industriale di auto, che a novembre ha registrato un ribasso del 14%, mentre nel complesso dei primi 11 mesi dell'anno scorso è scesa del 19,6%. Male tutti i raggruppamenti principali di industrie. Se l'Italia piange, l'Europa non ride. Anche la produzione industriale nell'Eurozona è scesa dello 0,3%. Si tratta del terzo calo consecutivo. Il dato è positivo solo in Estonia, Lettonia e Olanda. La Francia ha segnato un più 0,3%, mentre la Germania più 0,1%. I cali più significativi sono invece stati registrati in Slovenia, meno 4%, Portogallo, meno 3,5, Spagna meno 2,5, cali marcati anche per Irlanda, Grecia e Finlandia, fuori dall'Eurozona, frenata anche di Polonia, Svezia e Danimarca. La Gran Bretagna registra invece un più 0,3. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Attesa per il discorso con cui il primo ministro britannico David Cameron detterà la sua strategia per il futuro rapporto della Gran Bretagna con l'Unione Europea. Referendum sì o no, rimpatriare poteri da Bruxelles, i temi sul tappeto con gli euroscettici britannici. Discorso che dovrebbe tenersi il 22 gennaio, data simbolica nella storia d'Europa. Fu il giorno in cui 50 anni fa Francia e Germania firmarono il Trattato dell'Eliseo per la riconciliazione. E oggi Cameron ha anticipato la sua posizione alla BBC. I'm in favor of Britain's membership of the European Union. Cameron ha detto in sostanza che la Gran Bretagna non crollerebbe se uscisse dall'Unione Europea, ma che è nel suo interesse restare. L'Europa sta cambiando e l'opportunità per noi di guidare quei cambiamenti c'è, ha detto, e poi ha spiegato di avere alleati, riferendosi a Olanda e Germania. Tanto che Cameron ha avuto contatti telefonici con la cancelliera tedesca Angela Merkel e con il primo ministro olandese. Nelle prossime ore contatterà altri leader europei. Ed è tutto per noi per ora per GR Europa, che vi dà appuntamento a domani. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.